Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, alcune semplici e rituali informazioni di servizio. La prima riguarda il nostro sito radio24.it. All'interno del profilo dei conduttori potrete trovare anche i blog, per chi lo ha ovviamente, il mio lo conoscete, si chiama Guardie o Ladri e lo trovate anche sull'home page del Sole 24 Ore. La seconda informazione riguarda la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it, mail che è stata raggiunta da un nostro radioascoltatore di San Donato Milanese, quindi ci troviamo nella cintura di Milano, Massimo Pusineri, che fa presente un caso molto interessante, devo dire, particolare, che riguarda lui, ma sono convinto che riguarderà moltissime persone. Nell'oggetto della mail che ci ha inviato c'è già tutto il concetto. Ve lo leggo, tanto ci vuole un attimo. Per Sky i soldi non sono tutti uguali. Ci sono i parenti poveri e ci sono quelli ricchi. Devo dire che è interessante la cosa, perché nel momento in cui moltissimi di noi si apprestano a aprire o a rinnovare dei contratti con Sky, è bene sapere che alcune forme di pagamento sono più semplici, altre un po' più complesso, può essere interessante da approfondire come questione. Ed allora noi abbiamo chiamato innanzitutto Massimo Pusineri, il nostro radioascoltatore. Buongiorno Pusineri. Buongiorno a lei, radioascoltatore. E poi abbiamo chiamato la dottoressa Angela Gemma, che è responsabile dei rapporti con i clienti di Sky. Buongiorno dottoressa Gemma. Buongiorno Galullo, buongiorno Pusineri. Allora, io direi di partire proprio con lei Pusineri, cioè se possiamo raccontare in sintesi, ovviamente senza andare in tutti i dettagli di numeri e cifre, perché poi il radioascoltatore ovviamente si perde, non li segue, andiamo a raccontare la sua storia. Prego Pusineri. Certo, preciso che la storia riguarda i miei genitori, abbonati a Sky, e il tutto nasce con l'introduzione del digitale terrestre in Lombardia. Io ho un decoder abbastanza recente, non ho avuto problemi. Pensavo che anche i miei genitori col decoder Sky non avessero problemi, invece i primi canali trasferiti non erano visibili. Allora ho contattato il call center Sky, molto gentili devo dire, hanno verificato che essendo i miei genitori abbonati da Sky da molto tempo, il decoder che loro hanno è di vecchia generazione. Certo, e quindi non come accade per molti di noi. Esatto. Questo in giugno. Mi hanno consigliato di recarmi ad uno Sky Center per ritirare il nuovo decoder, che sarebbe costato solo 50-59 euro in giugno. Io ho aspettato i primi di luglio, mi sono recato allo Sky Center, scopro che il decoder c'è sempre un'offerta, è 79 euro perché il decoder è diverso, l'altra offerta era valida fino a fine giugno, uh-huh. E vabbè, 79 euro, accetto l'offerta. Al momento della registrazione della richiesta, il terminale Sky però non permetteva di accedere all'offerta. Oh, ecco, qui fermiamoci un attimo, Allora, intanto devo dire che questa è una trasmissione che, come sapete, serve per costruire e mai per distruggere. Bene ha fatto a sottolineare il nostro radioascoltatore che il rapporto con Sky è stato tranquillo, pacifico, non ci sono stati problemi, un'offerta poi era scaduta, lui accede ad un'altra offerta e arriva il momento fatidico, quello del pagamento. Ecco, fermiamoci un secondo qui, prego a lei Pusineri. Dunque bisognava registrare la richiesta, il pagamento viene dopo l'effettuazione dell'installazione. Comunque il terminale Sky non permetteva di accedere all'offerta. Esatto. Allora il gestore dello Sky Center ha telefonato a Sky per cercare di capire cosa non funzionasse e ha scoperto che poiché i miei genitori pagano con un bollettino postale e non con il debito su carta di credito o conto corrente, l'offerta per loro non è valida, cioè i miei genitori dovrebbero pagare 299 euro invece dei 79 come da offerta, a causa del semplice fatto che il pagamento è effettuato in una forma piuttosto che un'altra, cioè esatto. Come che i soldi che transitano dalla posta avessero un valore diverso. Un valore diverso. Allora, devo dire che il caso è veramente intrigante, non me l'aspettavo, insomma, una cosa del genere, perché nell'era della telematica, dei pagamenti agevolati, della moneta virtuale, delle carte di credito e via dicendo, trovarsi di fronte ad una cosa del genere è abbastanza strana. Capisco sicuramente che appunto la carta di credito agevola i pagamenti, però insomma le Poste sono le Poste, hanno comunque una vita centenaria, garantiscono e comunque sono pur sempre soldi, 299 anziché 79, insomma c'è una bella differenza soprattutto con i tempi che corrono. Allora dottoressa Gemma, che cosa succede, perché se uno paga con un bollettino postale deve pagare così tanto di più? Prego, a lei la parola. Dunque, vorrei ripartire da quello che diceva Pusineri, ossia i soldi hanno un colore diverso, un odore diverso a seconda del punto da cui transitano. La risposta è sicuramente no, soprattutto nel caso poi della famiglia Pusineri, perché non solo i genitori ma anche lui stesso sono clienti rispettivamente dal 2003-2004, quindi direi che il modo in cui hanno deciso e scelto di pagare è davvero un dettaglio. Un dettaglio che fa la differenza, però, come spesso accade, che fa la differenza è un'enorme differenza. Perché per noi il decoder di ultima generazione a cui fa riferimento il cliente, quindi il MySky in alta definizione con la chiavetta, rappresenta per Sky un ingente investimento, perché il valore commerciale non è né 79 né 299, è un valore differente, quindi per noi rappresenta un investimento nei confronti dei quali l'azienda di norma si tutela, così come tutela anche il cliente per la continuità del servizio con metodologie di pagamento automatizzate. Però in realtà l'osservazione che poi faceva Pusineri in chiusura del documento inviato a voi è quella corretta, che indipendentemente dalla metodologia di pagamento, se un cliente è un buon pagatore, come nel caso dei suoi genitori che per 7 anni sono stati sempre puntualissimi, è davvero un dettaglio come pagano. Ecco, quindi, però io direi questo, ecco. Quindi io la precedo, vediamo se sono un bambino di modesta intelligenza, quale credo di essere. Quindi Pusineri pagherà 79 euro. Esatto. Oh, ha visto che c'ho un'intelligenza modestissima. Le confermo che in realtà l'osservazione estremamente di buon senso che ha fatto Pusineri ce l'aveva fatta qualche altro cliente. Oh, perché, insomma, ecco, lì volevo arrivare. Di buoni clienti che pagano con modalità bollettino postale, ne abbiamo tanti. Ecco, però qui non si tratta del singolo, no? Perché se noi facessimo una trasmissione per ogni singolo, chissà quanti ne scopriremo. Qui si tratta, io Corretto. Le offro questa possibilità, dica attraverso i microfoni di Radio 24: cari abbonati fedeli, amici di Sky, se anche volete pagare con il bollettino postale potete farlo. Ecco, però come fanno a farvi capire che sono dei fedeli e non sono dei parvenu dell'abbonamento? Abbiamo posto solo una piccolissima condizione. Abbiamo aperto la stessa offerta commerciale a tutti i clienti Sky che pagano con bollettino postale, purché siano buoni pagatori e clienti Sky da almeno 9 mesi, quindi insomma direi comunque una condizione assolutamente contenuta rispetto all'anzianità media dei nostri clienti, che ripeto, come nel caso specifico di alcuni. Benissimo, anni. Allora cari radioascoltatori che volete rinnovare l'abbonamento a Sky, sappiate che questa offerta che è in corso, 79 euro, può essere usufruita anche attraverso bollettino postale, ma voi lo Mi state pubblicizzando, ecco, cose. Prego. Una è che sarà disponibile dalla fine di questo mese, che insomma vuol dire tra pochi giorni. Benissimo. Perché richiede un piccolo sviluppo Benissimo. Tecnologico Benissimo. Nei nostri sistemi. Benissimo. E l'altro, appunto, volevo aggiungere qualcosa in più sulla metodologia bollettino postale. Certo. È un dato di fatto che noi abbiamo una percentuale molto elevata di frodi su quella metodologia di pagamento. Certo. Quindi per noi certo. Ci siamo un pochino tutelati con un sistema antifrode che, come lei giustamente sottolineava, non deve però penalizzare i nostri clienti. Corretto e giusto che voi vi tuteliate, così come corretto e giusto, ma vedo che siamo tutti in sintonia, che una volta che viene sollevato un problema legittimo e reale, come si direbbe giocando a carte, poi questo venga risolto a tutela dell'impresa e dei consumatori. Caro Pusineri, lei è contento? Beh, io sono contento innanzitutto per i miei genitori che, essendo pensionati con problemi di salute, la TV è un elemento centrale della loro giornata, ma soprattutto sono contento perché siamo riusciti ad infrangere una discriminazione. Esatto, allora io dico, siamo a fine luglio, quindi buone vacanze a tutti. Grazie alla dottoressa Angela Gemma, che è responsabile per le relazioni con il cliente di Sky, e al nostro radioascoltatore Pusineri. Dico grazie in regia a Valerio Rocchetti e in studio a Gloria Guerrera e Valeria Coffaro. E Roberto Galullo vi augura una buona giornata.